Ma certo, è Rock FM, l'unica, l'intramontabile. Ah, 7:31 minuti primi, qui c'è l'Ariele. Eccolo qua, c'è anche Mister Trombetta. Non poteva mancare il mio unico amico De Fero. E con lui l'intramontabile soubrette di questo spazio mattutino, la Mucca Camilla. Noi ci siamo tutti e voi? Fatevi sentire al 335-100-7777. Basta! 4 volte 7 è il numero di SMS attraverso il quale, se lo vorrete, potremo tornare ad essere amici come una volta. Un'ora e mezza ancora a nostra disposizione e tanti gli argomenti da toccare, gli argomenti scottanti, la cartolina postale. Voi non potete nemmeno immaginare che cosa è successo. Lo scopriremo insieme nel prosieguo di Pane, Burro e Rock and Roll, nuova stagione, già programma di culto. Si chiamano White Snake. Come and get it. Yeah. Se proprio lo vuoi, vieni a prendertelo. I got something for you. Ho qualcosa per te. Si chiama Pane, Burro e Rock and Roll, una trasmissione radiofonica ricca, stracolma di buona musica come questa Come and Get It, White Snake. Abbiamo iniziato da 37 minuti questa nuova diretta. Qualcuno scrive via SMS. Siamo sicuri che non è una replica? No, sono in rigorosa diretta. Come fare, mio caro regista Spadino, a dimostrare ai radioascoltatori che sono in diretta? È ovvio, è lunedì 4 agosto. Che stupidone, il solito vecchio stupidone. È lunedì 3 di settembre o no? Il vostro orologio fa le 7:37 minuti primi o no? Anche se, e ne approfitto al volo per raccontare una delle novità di questa nuova stagione di Pane, Burro e Rock and Roll, se la tecnologia sarà dalla nostra parte, se gli amici e le amiche del sito www.radiorockfm.com ci daranno una mano, e ne siamo quasi convinti, non vedo perché non dovrebbero farlo, da quest'oggi l'hanno... Sì, da quest'oggi, perché no? La novità della nuova stagione di Pane, Burro e Rock and Roll sarà di poter ascoltare in streaming quasi, non dico in tempo reale, ma al termine della diretta di Pane, Burro e Rock and Roll verremo archiviati nella sezione, per l'appunto, archivio del sito internet di Rock FM. Così i numerosi amici che spesso e volentieri si lamentavano, ma sono riuscito a sentire Sonolino, poi dopo sono entrato in ufficio, non potevo ascoltare, ecco, non potrete più dirlo, perché da quest'oggi, al termine della diretta, immediatamente avrete tutta la puntata a vostra disposizione, potete fare quello che volete, riascoltarla al contrario per vedere se abbiamo dato dei messaggi satanici, cosa che a volte capita, perché Freccantoni ha questo vizietto ogni tanto di infilarci frasi al contrario subliminali che... così in diretta magari non vi capita di sentire, riascoltandola potrebbe essere, farla ascoltare ai vostri amici, al vostro cane, al vostro gatto, insomma, poter risentire le puntate di Pane, Burro e Rock and Roll. Oh, che bella emozione essere tornati insieme. Si accennava poc'anzi all'effetto cartolina, io non ho parole per ringraziare ognuno di voi per quello che è successo. Nel corso delle repliche dell'estate abbiamo lanciato questo messaggio di speranza con l'appello ultimo nel vano tentativo di salvare la cartolina postale. Ragazzi, sicuramente qualcosa abbiamo fatto. Il numero delle cartoline che tuttora continua ad arrivare è impressionante e io, a nome mio, a nome di Spadino, a nome di Roberto Fricantoni, a nome di Mister Trombetta e della Mucca Camilla, vi ringraziamo singolarmente. Siamo talmente matti che abbiamo anche pensato poi di ringraziarvi concretamente tutti quanti, nel senso che tenteremo in questa prima tranche di Pane, Burro e Rock and Roll di salutarvi, di leggerle tutte. Qui in redazione nessuno ci crede, dice come fate a leggerle tutte, sono troppe, fa niente. La mia risposta è: ma tanto di tempo ne abbiamo, 2 ore alla mattina, prima o poi entro Natale 2010 dovremo farcela, basta impegnarsi e poi ce la fai. Can you tell me where my country lies? Sì, te lo posso dire, se proprio ci tieni. Ah, era la canzone. Scusa. It lies with me, cried the queen of maybe. For her merchandise, he traded in his prize. Paper late, cried a voice in the crowd. Old man dies, the note he left was signed Old Father Thames. It seems he's drowned. Selling England by the pound. Citizens of hope and glory, time goes by, it's the time of your life. Easy now, sit you down, chewing through your wimpy dreams. They eat without. Young man says you are what you eat well. Old man says you are what you wear well, well. You know what you are, you don't give a damn. was a fat old lady outside the saloon, laying out the credit card she plays for tune. The deck is uneven right from the start, and all of their hands are playing a part. Captain la grande musica di Rock FM, Genesis, Dancing with the Moonlight Night. Qui c'è sempre l'Ariele con Spadino in regia, il buon Freak pronto al microfono della vostra emittente radiofonica milanese preferita per tornare a occuparsi di una certa parte di radioascoltatori e di radioascoltatrici che, ben lo sappiamo, a quest'ora della giornata vive un dramma particolare, vive un dramma specifico, quello di essere già in ritardo. Eh sì, per il famoso detto chi ben comincia a metà dell'opera, c'è, lo sappiamo, chi di voi comincia sempre male, ma tranquilli, tranquilli, state in una grossa botte di ferro, perché anche nella seconda stagione di Pane, Burro e Rock and Roll ci sarà la premiata rubrica Il ritardatario ritardato, una scusa al giorno per potervi raccavare nelle peggiori situazioni. Basta avere la scusa buona e dirla bene. Il buon Freak insegna. Servizio a favore del radioascoltatore. Il ritardatario ritardato. Non frapponete alcuna remora morale tra il problema e la sua soluzione. La scusa di oggi, interpreta il maestro di giustificazioni Roberto Fricantoni. Pronto? Katia? Ciao, sono io. No, hai ragione, hai tutte le ragioni ad essere arrabbiata. Sì, Katia, però... No, sono imperdonabile, lo riconosco, sono imperdonabile. Ma lasciami spiegare. Sì, lo so che ieri dovevamo vederci assieme, ma so perfettamente che avevamo un appuntamento, Katia. Ma certo che lo ricordo perfettamente. E io telefono proprio per scusarmi. Ma vedi, mio padre, non so se sai, è un appassionato di antichità, è veramente perso dietro a questo suo amore per le antichità e ha appeso in cucina un calendario giuliano. Per cui io ieri, dandogli un'occhiata così, una scorsa veloce, non mi sono accorto che appunto ieri fosse ieri, quindi ho un po' come dici, non vuoi più uscire? No, aspetta Katia, io te lo porto il calendario giuliano, te lo porto, ti faccio vedere, te lo dimostro Katia! Il ritardatario ritardato, non dimenticate! Una buona scusa è quello che ci vuole per qualsiasi ritardo doloso. È un servizio a favore del radioascoltatore offerto da Rock FM. Yeah. Eh sì, ormai le vacanze sono terminate, ma come ampiamente detto nel corso della puntata, gran vanto di questo inizio di seconda stagione di Pane, Burro e Rock and Roll, il grandissimo successo che ha avuto la nostra campagna di sensibilizzazione a favore della cartolina postale. È bastato toccare un nervo scoperto, quella della possibile estinzione della cartolina postale, per avere un ritorno di affetto gigante da parte dei nostri radioascoltatori e delle nostre radioascoltatrici, che ringraziamo moltissimo per la prontezza della sensibilità. Complimenti. È quasi ufficiale, la cartolina postale non è morta in quest'estate 2007 grazie a te, amico, ma soprattutto grazie a te, amica di Pane, Burro e Rock and Roll. Avremmo deciso in queste prime settimane di diretta di salutare ciascuno dei radioascoltatori che ha inviato una cartolina all'indirizzo via Locatelli 1, 20124 Milano. Dico bene, Frick? Dici benissimo, Ariel, ma attenzione perché sono tantissime queste cartoline. Mio caro Frick, mi permetta di ricordarle che noi abbiamo tantissimo tempo a nostra disposizione per salutare ognuno di loro, ma soprattutto nel gran calderone di cartoline che ci sono arrivati, la nostra, grazie all'aiuto della nostra redazione, abbiamo setacciato e suddiviso ogni singola cartolina in diversi filoni che avete intrapreso, e saluteremo in base a questo. Allora, d'accordo, così possiamo farcela. Sa con cosa inizierei quest'oggi? Mi dica. Col filone voyeur, col filone donne nude, culi al vento, se posso specificarla. Ah. Eccole qua. Tra l'altro iniziamo salutando l'unico caso di cartolina uguale, abbiamo due cartoline identiche, arrivate dall'isola d'Elba. Andiamo a salutare un'amica e un amico fiorentino, Ale 68 ed Elisa, e invece un amico genovese che ci scrivono, entrambi ci spediscono la stessa cartolina dell'isola d'Elba. La prego, siamo alla radio, la descriva. Bene, in pratica direi che ci sono tre fondoschiena. Oh, ecco. Fantastico. Ma è particolare, non c'è il fondoschiena soltanto, c'è anche, me lo spieghi bene, della sabbia finta. Allora, esatto, i fondoschiena sono glitterati. Glitterati. Molto giusto, sono proiettati questi fondoschiena completamente nudi, ovviamente di di genere femminile. Il fondoschiena, ci tengo a sottolinearlo, si stagliano sullo sfondo di un mare azzurro. L'Elba, sicuramente. Il mare dell'Elba azzurrissimo. Vorrei che lei concentrasse l'attenzione sul motto di questa cartolina, che appunto, ripetiamo, descrive tre bei fondoschiena glitterati di sabbia finta. Certo. Ma il motto cardine di questa cartolina è: all'Elba tre meglio di due. Citando dei supermercati, ringraziamo l'amico genovese del King Caffè che scrive: contribuisco a salvare la cartolina postale. Bravo. E come già detto, salutiamo Ale ed Elisa che scrivevano: cosa volete di più dalla vita? Un tucano. Cari Ariel e Frick, con questa storia delle cartoline ci siete talmente entrati in testa che anche solo un giorno e mezzo in vacanza si trova il tempo di mandarne una, e poi con tre gufi così, dici che si chiamano gufi dalle loro parti. Ma forse uno slang locale. E allora ringraziamo Elisa, Ale e l'amico del King Caffè di Genova. E ringraziamo anche le tre modelle. Che sono diventate sei così. Che sono diventate sei, raddoppiate, hanno scelto la stessa cartolina i nostri amici, e come diceva Ariel, ed è l'unico caso, notevole che ci sia questa sabbietta fina sulle natiche. Questo è veramente un particolare notevole. Complimenti. Viva la cartolina, via Locatelli 1, 20124 Milano. Rock FM. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say it to you. Girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. The time to wallow in the mire. China, we can only lose. Noi tenteremo di gettare a fuoco la mattina, di bruciare la mattina, da un sensuale Jim Morrison a un sensuale DJ Ariele, quello che passa al convento. Light My Fire, un minuto alle 8 del mattino, orario nel quale inaugureremo una nuova rubrica, una nuova premiata rubrica all'interno di Pane, Burro e Rock and Roll, già programma di culto, ovvero il brano della riserva. Della riserva non nel senso dello scarto della serva, ma nel senso del brano scelto, studiato a tavolino, un brano perfetto per far iniziare la giornata agli amici e alle amiche che avranno il buon cuore di accendere, di posizionare la loro radiosveglia sulle frequenze di Rock FM. Un Ariele più dislessico del solito. D'altra parte, che ci volete fare? Fare radio è un po' come andare in bicicletta, no? Non si disimpara mai, però un po' il ritmo lo perdi. Qualcuno scrive anche: hai cambiato voce, Ariele? No, mi sembra di no. Cioè, io non è successo niente, sono abbastanza normale. Poi sarà che vi eravate disabituati. Vabbè, restate lì perché tra poco vi svegliamo noi con un pezzo. E che pezzo, ragazzi! Ci sono dei posti dove ti senti subito a casa. Rock FM. Dei posti dove tutti i piaceri della vita hanno un sapore unico. Pane, burro e rock and roll. È tornato buono amore. Rock and roll. Per darti un po' di festa, tutti i giorni.